Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Allora, come sapete, a me piace raccontare storie di antimafia, vale a dire storie di coloro i quali si oppongono alle penetrazioni delle mafie su tutto il territorio nazionale. Alcuni mesi fa ho avuto ospite in una precedente trasmissione Don Luigi Merola, un prete che sinteticamente potrebbe essere definito un prete anticamorra, però questi appellativi, queste etichette poi alla fine lasciano il tempo che trovano, ammesso e non concesso il fatto che tutti i sacerdoti dovrebbero essere antimafie, no? Perché la struttura stessa, il DNA stesso di un sacerdote, comunque di un religioso. Ma Don Luigi Merola non parla fa fatti. Fa fatti al punto tale che si muove da un quartiere all'altro di Napoli, ma non i quartieri bene di Napoli, no, i quartieri in cui c'è la camorra, in cui c'è il brodo di coltura della camorra. Ebbene, Don Luigi Merola alcuni giorni fa ha subito quello che io chiamo un vero e proprio sgarro, vale a dire ottenuto un terreno in una villa confiscata alla camorra e volendo lavorare quel terreno per poter permettere ai ragazzi di giocare non riusciva a trovare persone, ditte, che volessero lavorarci. Alla fine ci riesce. E sentite un po' che cosa succede. Buongiorno Don Luigi Merola. Buongiorno a tutti, allora, grazie dell'invito. Grazie a lei. E che cosa è successo allora nel quartiere Arenaccia, in quel famoso giardino in cui lei con difficoltà è riuscita a trovare una ditta che gratuitamente per voi voleva lavorare? È stato un bruttissimo giorno perché l'entusiasmo era alle stelle, il mio entusiasmo e quello dei miei volontari, dei miei educatori, dei miei bambini. Finalmente abbiamo lottato dopo 3 anni ad avere questo terreno che è adiacente alla nostra villa, la famosa villa di bambù. Era un terreno dove era adibito allo zoo del boss Brancaccio. Pensate, non aveva solo semplici animali, aveva anche un leone che si chiamava Simba. Quando certo. Fu arrestato e quando poi lo Stato ha fatto lo Stato, si è preso tutto. Certo. Io ho lottato 3 anni, era un terreno abbandonato, era diventato il luogo di ritrovo dei drogati, era un luogo dove forse avvenivano anche incontri da piccoli e grossi delinquenti, forse anche il luogo dove si mettevano le armi. Comunque alla fine abbiamo vinto questa battaglia, un bellissimo giorno, abbiamo iniziato i lavori, ma era martedì e dopo poche ore sono arrivati questi motorini, hanno cominciato a dire agli operai che state facendo qui, andate via, fino a dire questo è il nostro terreno, ma noi stiamo lavorando per Don Luigi Merola, stiamo facendo il campo di calcetto per i suoi bambini. Dopo 2 ore questi si sono organizzati e si sono rubati tutto, cioè si sono rubati un camion, una gru, non è che si sono rubati una bicicletta. Certo. E sono passati già diversi giorni e ancora si resta in attesa di sapere chi ha rubato, ovviamente in pieno giorno, Don Luigi Merola, no? Sì, in pieno giorno erano le 10:05, noi abbiamo delle telecamere. Adesso ho chiesto una videosorveglianza speciale, più forte, perché video delle camere in bianco e nero non si vede bene, si vede solo che io appena mi sono messo in macchina con la mia scorta è avvenuto il raid. Certo. E dove si sono mossi, però non riusciamo a inquadrare attraverso le immagini i volti perché abbiamo una videosorveglianza, come si dice a Napoli, un po' appuzzuttata, un po' particolare. Ho detto al prefetto di Napoli, ma è possibile che hanno le videosorveglianze, persone che non rischiano, persone che non fanno un tubo dalla mattina alla sera e noi che abbiamo un bene confiscato alla camorra non riusciamo a mantenerlo, perché poi secondo me questa è una sfida che si fa allo Stato, perché finché c'era il boss quel bene va avanti ed è mantenuto, quel bene adesso viene utilizzato per uso sociale, facciamo fatica per utilizzarlo e per mantenerlo, certo, metterlo certo. In sicurezza. Certo, ecco, io voglio ricordare così en passant una cosa che Don Luigi Merola, avete sentito che razza di attributi ha soltanto nel sentirlo parlare, così en passant ha una scorta e en passant un camorrista in un'intercettazione telefonica dice cose che si sono viste soltanto 30 anni fa circa in Sud America, lo ammazzeremo sull'altare. Ecco, questo è Don Luigi Merola e questo è lo Stato che non è capace di aiutare Don Luigi Merola. Senta Merola, io le vorrei fare una domanda. Lei è da poco tempo consulente della Commissione parlamentare antimafia, no? A titolo gratuito. A titolo gratuito, fa benissimo a sottolinearlo, precisiamolo e fa bene a precisarlo. Senta, ma fuori dal coro, ma a cosa serve questa Commissione parlamentare antimafia? La Commissione parlamentare antimafia serve a conoscere come si evolve anche il fenomeno camorristico, mafioso, serve a fare anche, tra virgolette, delle indagini particolari, però poi... dalle parole non si passa. Bravo, è questo, cioè conoscere, ormai sappiamo molto, non dico tutto, però voglio dire, bisognerebbe passare dalle parole ai fatti, e mi domando, i fatti sono quelli che lasciano Don Luigi Merola, non dico solo perché ringraziando Dio c'è la parte bene di Napoli, bene nel senso non ovviamente borghese del termine, ma la parte sana di Napoli che è accanto a lui, però non basta questo. Io sono contento che questa parte sana, perché la Fondazione A Voce del Creatore, che così si chiama, sì, www.avocedelcreatore.it, va avanti solo con elargizioni di privati, di persone, professori, insegnanti che ci danno una mano. Non abbiamo mai avuto un finanziamento pubblico, cioè pure abbiamo 100 bambini che abbiamo sottratto alla strada. Ecco, ha fatto bene a darla alla Fondazione, ridiamo lentamente il sito, perché visto che siamo quasi in tempi di 8 per 1000, quant'è? Qualcuno se volesse anche, no, dare qualcosa a questa Fondazione, credo che possa farla, Don Merola, no? Sì, bene. Noi abbiamo anche il bilancio online, ho voluto proprio per la trasparenza sul sito mettere anche il bilancio, perché la gente deve sapere che cosa fanno le associazioni Onlus, perché poi sulle associazioni Onlus ci sarebbe poi tutto un altro discorso. Assolutamente. Dunque, d'accordo con lei. www.a come Ancona, voce di come Domodossola, come Empoli, creature.it, voce del creature.it. Benissimo, allora quindi io invito tutti a consultare questo sito, è un modo come un altro per stare accanto a Luigi Merola, che ringrazio per il suo intervento, lo sentiremo ancora, seguiremo ovviamente le sue storie, saremo anche noi una delle tante sponde di legalità per questo prete che con i fatti e non con le chiacchiere combatte per la legalità ogni giorno a Napoli. Dico grazie in regia a Peter Bescapè e in studio a Valeria Coffaro, Roberto Carullo vi auguro una buona giornata, ricordandovi la mail sottotiro@radio24.it.